Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ovviamente il mio saluto va a Gianluca Codognato, che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, qua siamo in un periodo importante che è quello delle vacanze, ma anche di chi magari si è tenuto un po' di soldini da parte e va a fare spese. Perché? Perché sono arrivati i saldi. Sì, sono arrivati i saldi, però Francesco bisogna dire che ormai, non lo diciamo ormai da tempo, non siamo sicuramente più ai saldi di una volta, con le code fuori dai negozi, soprattutto dai negozi di scarpe eccetera. Non c'è più la frenesia di una volta, non c'è più l'entusiasmo di una volta. Per quale motivo? Perché effettivamente i negozi, in questi, soprattutto i negozi dei centri città, quindi non quelli dei centri commerciali, ma anche loro in realtà fanno saldi tutto l'anno, lo sappiamo bene, nel senso che le promozioni, gli sconti, chiamiamoli come vogliamo, però avvengono tutto l'anno, perché comunque proprio per le difficoltà che sta vivendo il commercio in tutta Italia, nel Veneto, ovunque, chiaramente i negozianti con vari escamotage cercano di accaparrarsi la clientela prima dei saldi, tutto l'anno. Tra l'altro, come sempre, ravvisiamo che proprio prima dei saldi, cosa che non si potrebbe fare, lo sappiamo benissimo, tanti negozi annunciano che comunque gli sconti sono già cominciati, lo fanno in modo un po' mascherato, mandano i messaggini ai clienti, i desideri di card, quindi diciamo, va bene, sono cominciati i saldi, ma forse non se ne sono accorti in tanti. Detto questo, possiamo dire che comunque è chiaro che c'è chi comunque punta a questo periodo, anche se chiaramente i saldi estivi hanno dei fatturati nettamente inferiori rispetto ai saldi invernali, comunque diciamo puntano a questo periodo soprattutto, possiamo notare, per comprare le scarpe, perché le calzature sono dei prodotti insomma che hanno un certo costo, e oggettivamente trovarli a metà prezzo è sempre un bel vantaggio. Devo dire che noi abbiamo fatto la nostra consueta indagine, sentendo chiaramente i nostri iscritti, e registriamo i nostri iscritti anche sentendo alcuni negozianti, e registriamo già un calo delle vendite rispetto all'anno passato. Ricordiamo, i saldi sono iniziati esattamente sabato scorso. È stato un weekend abbastanza povero d'affari, soprattutto per i negozi del centro. Sono andati un po' meglio i centri commerciali, sono andati un po' meglio gli outlet, però insomma diciamo che la gente ha preferito andare in spiaggia, comunque insomma grandi affari non se ne sono visti. Noi registriamo in realtà un calo dei fatturati tra il 10 e il 12%, registriamo un calo anche delle persone che hanno comprato, che annunciano di comprare, dal 60 al 55%, cioè vuol dire che teoricamente sono diminuite del 5% il numero di persone che andrà poi a fare gli acquisti anche durante tutto il lungo periodo di saldi. Insomma, nessun entusiasmo, diciamo che la spesa per ogni singola persona si aggira attorno agli 80-90 euro. Chiaramente stiamo parlando soprattutto di donne, sono le donne soprattutto che ne approfittano dei saldi. No, magari le donne comprano le cose anche per gli uomini, ma diciamo che questo è vero. È anche vero che comunque l'uomo non è più l'uomo di una volta, nel senso che comunque ci tiene molto anche all'estetica, a comprarsi qualcosa. Infatti diciamo le percentuali sono aumentate di uomini che vanno anche ad acquistare in saldo, però insomma diciamo che è nettamente preponderante, attorno al 65-70% la quota di donne invece che va ad acquistare, magari accompagnata anche dai mariti o dai compagni. Ecco, può essere che anche il mercato online, cioè il fatto che comprando attraverso internet si paga già meno la roba. Il mercato online si sta decisamente sviluppando anche in Italia. Ricordiamo, Francesco, che rispetto ad altre realtà, ad altre nazioni, mi sono ancora molto indietro con il commercio online, però si sta assolutamente aumentando, per cui sicuramente aumentano anche le vendite online. Quello che bisogna dire è che veramente continuano a soffrire i negozi del centro, dei centri cittadini, perché comunque uno preferisce magari anche in una giornata calda, qua lo capiamo, andare in un centro commerciale, trova 30, 40, 50 negozi, e parcheggio ce n'è, alla fine conviene, gli conviene andare là. L'aria condizionata, l'aria condizionata, se piove, un tetto, e quindi siamo purtroppo, perché a noi dispiace ovviamente che il piccolo negozio del centro perda appeal, anche perché di conseguenza perda appeal la città e il sistema città. Però insomma questa è una tendenza ormai che vediamo da molto tempo. Nessun entusiasmo dunque per questi saldi, ripeto, i saldi estivi danno anche molti, rappresentano comunque il 10-12% del fatturato annuo, mentre i saldi invernali rappresentano una quota molto più ampia, più alta. Ovviamente. Ecco, ricordiamo comunque che è buona norma magari non precipitarsi a fare gli acquisti, cioè cercate bene il capo che vi interessa, verificate che quel capo insomma sia stato scontato effettivamente del prezzo che c'è scritto nel cartellino, altrimenti si può chiedere l'aiuto anche delle forze dell'ordine? Sì, si possono segnalare eventuali scorrettezze ai vigili urbani. Ai vigili urbani? Assolutamente, però anche chiaramente alle associazioni dei consumatori. Tra l'altro, Francesco, ricordiamo che anche quest'anno abbiamo lanciato la nostra campagna Fotografa il tuo acquisto, che è proprio una campagna molto mirata a evitare certi tipi di imbrogli. Cioè si dice al cittadino: vai a fotografare il prodotto, il bene che ti interessa, e il prezzo del bene che ti interessa prima dei saldi, così quando iniziano i saldi vediamo se veramente quel prezzo è stato scontato o meno, perché noi sappiamo che tante volte invece gli sconti sono finiti. Adesso non vogliamo condannare tutti i commercianti, però insomma c'è più di qualcuno che fa un po' il furbo, quindi non sconta veramente il prodotto e quindi alla fine il saldo non ha senso. Noi tra l'altro diamo i soliti consigli, chiamiamoli soliti ma sono sempre molto utili, tra cui quello che hai dato anche te adesso, quindi attenzione a fare sempre un giro di perlustrazione e per capire anche le varie proposte. È chiaro che certi tipi di prodotti uno va a prenderseli di corsa perché ha paura che vadano via, soprattutto le scarpe, che continuiamo a dire proprio le scarpe, se tu le vedi prima dei saldi e vedi un paio che ti piace, chiaramente devi andare in coda, se c'è la coda non ci sono più, però devi farti avanti il prima possibile per evitare di perdere quel prodotto. Però è vero, bisogna comunque armarsi di pazienza e non farti prendere la frenesia quando si va a comprare in saldo, perché veramente a volte ci si trova con in mano dei prodotti che non valevano minimamente quel prezzo, neanche scontato. Ecco qui, grazie a Gianluca Codognato, grazie all'Adico, associazione difesaconsumatori.it, il sito da andare sempre a vedere. Grazie, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.